Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La strada che unisce Correggio a Carpi è costellata da grandi e possenti olmi che ricoprono la campagna emiliana e riparano dal cocente sole d'agosto. Ma se ci si allontana dalla strada, ci si può sedere ai piedi di uno dei tanti pioppi che spezzano l'orizzonte dei campi e dei filari di viti. Gli anziani li chiamano le pioppe parladore, perché ognuno si può sedere ai loro piedi e confidare i propri problemi cercando un consiglio. Chi ha orecchio fino è addirittura capace di sentire la risposta alle proprie domande. Seduto sotto uno di questi pioppi c'è un uomo, non tanto alto, con il viso segnato dalla fatica e gli occhi lucidi. Si tocca con le dita i baffi. Nel 1912 quasi tutti gli uomini li portano. Si asciuga il sudore della fronte dopo essersi tolto il cappello. Cerca consiglio e lo chiede alla pioppa parladora per sapere se la sua carriera di maratoneta deve finire lì, tra le campagne di Carpi, oppure no. Una carriera è iniziata qualche anno prima, nel 1904, quasi per caso, quando questo ragazzo 19enne lavora come garzone in una pasticceria nel centro di Carpi. La sua è un'umile famiglia di contadini che pochi anni prima ha lasciato la campagna per trasferirsi in città. Certo, la natura non gli ha regalato un aspetto prestante, visto che sfiora il 1,60 m di altezza, ma in compenso le sue gambe sono forti e muscolose. Porta in giro dolci momenti di felicità per il palato, il giovane Dorando Pietri. Dorando Pietri. Dorando, fin da giovane, si mise a lavorare in una pasticceria, si chiamava Melli, l'attuale Bar Roma della Piazza Martiri di Carpi, per cui non era un grosso peso per la famiglia, magari guadagnava poco, ma già a 10 anni era uno che portava a casa qualcosina. Ivano Barbolini è il presidente e fondatore della Maratona d'Italia, una corsa che ogni anno da 25 anni unisce Carpi a Maranello, in ricordo dei due più rappresentativi cittadini delle due città emiliane, Enzo Ferrari e lo stesso Dorando Pietri. Agli inizi del secolo, nelle città della pianura padana, il bene più importante è la terra, i cui frutti danno da mangiare a intere comunità rurali che prosperano a ridosso del Po. Una vita semplice, con poche comodità e schiene spezzate dalla fatica del lavoro dei campi, di persone che vivono ogni avvenimento capace di interrompere le abitudini di ogni giorno come una festa da condividere insieme. Come per esempio una gara podistica. Nel 1904 la cittadina di Carpi è in subbuglio. Tutti attendono che il sindaco in persona dia la partenza della gara di 3.000 metri, tra i cui partecipanti c'è anche il leggendario Pericle Pagliani, indiscusso campione laziale della specialità che nella vita si guadagna da vivere facendo lo strillone. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Dorando Pietri deve fare le consegne della pasticceria, ma l'occasione è troppo importante. Dorando corre sempre, in ogni occasione possibile, e oggi c'è Pericle Pagliani, un vero campione. Non vuole perdere la possibilità di parlargli. Gli vuole chiedere se con la corsa si guadagnano abbastanza soldi da mantenere una famiglia. A Carpi lo sanno tutti che gli piace correre. Lo sanno i suoi genitori e lo sa perfino il signor Melli, il padrone della pasticceria. Lo sa da quella volta che gli ha chiesto di imbucare una lettera urgente per Reggio Emilia e lui, accortosi che il postino aveva già ritirato la posta, non ci ha pensato due volte. Ha letto l'indirizzo sulla lettera e via di corsa fino a Reggio a consegnare la lettera di persona. 25 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno, il tutto in meno di 4 ore. Quando vede passare Pericle e Pagliani, Dorando non ci pensa due volte e si mette a correre accanto a lui. Quando vide questo atleta, questo podista vincere una corsa a Carpi, non solo si entusiasmò, ma lo rincorse per avere delle informazioni. Lo rincorse durante la corsa proprio, mentre l'altro correva, con il cesto, lui faceva Dorando il garzone di una pasticceria, con dentro le torte, le paste che si conciarono come facile immaginare. Lo rincorse e arrivò insieme a lui, cioè fece tutta la corsa insieme a lui, cioè significa che già era in grado di battere o comunque stare alla pari con un grande campione. Così ci racconta Giuseppe Pederiali che nel libro Il sogno del maratoneta ha narrato la vita di Dorando Pietri, eroe carpigiano. Sì, perché a Carpi Dorando è ancora oggi considerato un vero eroe, un simbolo di onestà e valore che da più di un secolo ha reso orgogliosa un'intera comunità contadina, che ha scandito il tempo con il passare delle stagioni, con le semine e i raccolti, con la fatica del lavoro nei campi e con l'allegria delle feste legate ad antiche tradizioni. Davanti alla folla sbigottita, il piccolo Dorando Pietri ha appena tagliato il traguardo della 3000 metri di Carpi insieme al campione nazionale Pericle Pagliani. Tutti applaudono il campione, ma qualcuno si avvicina a Dorando che ha ancora il grembiule da garzone e la scatola con le torte in mano. È Francesco Minozzi, presidente della società sportiva La Patria, che ancora sbalordito decide di offrire una possibilità al giovane Dorando, offrendogli di entrare nella squadra ed allenarsi seriamente. Dorando Pietri è felice, anche se guardando il campione Pericle Pagliani assiste a una scena che non si sarebbe mai aspettato, come ci racconta Giuseppe Pederiali. Però poi ci rimase male, perché finita la corsa, le autorità così si congratularono, regalarono la coppa in palio a Pericle Pagliani, e poi Pericle, con il berrettino suo, passò tra la gente a chiedere l'obolo. Usava così, cioè una cosa umiliante, però allora era l'abitudine. Dorando Pietri ha raggiunto il suo obiettivo, quello di poter vivere la propria passione per la corsa come una possibile futura occupazione. Lo aspettano molte gare. Deve dimostrare di essere in grado di guadagnarsi un posto per la meta più ambita da ogni sportivo, partecipare alle Olimpiadi. A New York City è l'alba e la città comincia a svegliarsi. Ai mercati della frutta e ai docks del porto, i giovani garzoni dei negozi del centro si mettono in fila con i loro carri per prendere la merce da portare sulle bancarelle. È un lavoro duro, la giornata comincia prestissimo, ma per molti immigrati sbarcati negli Stati Uniti con tante speranze in un futuro migliore, è un modo come un altro per guadagnarsi da vivere. Il miraggio di molti europei che lasciano la loro patria per inseguire il sogno americano si tramuta nella cruda realtà di vivere in una città dove bisogna lavorare duro per sopravvivere. Italiani, russi, irlandesi attraversano l'oceano in condizioni al limite della sopravvivenza pur di poter vedere la Statua della Libertà. John è un ragazzo nato a New York, ma con il sangue irlandese nelle vene. I suoi genitori hanno lasciato l'Irlanda con tante speranze. E ora il loro figlio è lì, al porto, a caricare sacchi di farina per il negozio dove lavora come garzone. Anche John ha una grande passione, la corsa, e la esercita sempre, appena ne ha l'occasione. Nel 1905 riesce a trovare un posto di fattorino e assistente al responsabile del reparto sportivo dei magazzini Bloomingdale ed ottiene il permesso di allenarsi nel tempo libero correndo sulla piattaforma di cemento che si trova sul tetto del palazzo. L'anno dopo arriva quinto alla maratona di Boston e questo è sufficiente per assicurargli un posto nella squadra di atletica americana e ottenere un posto per partecipare alle Olimpiadi. Non c'è dubbio, ci sa davvero fare. Johnny Hayes. Le Olimpiadi sono l'evento sportivo più importante del mondo. Nate dall'idea di Pierre de Coubertin, si sono svolte per la prima volta ad Atene nel 1896, in onore degli antichi giochi greci che coinvolgevano gli atleti più valorosi della grande civiltà dell'Egeo. Con cadenza quadriennale, gli atleti di tutto il mondo si sfidano in una serie di competizioni nelle più disparate discipline sportive, dal curling alla corsa. They get away first time. Powell has got a very good start, so did Dix alongside him, but here comes Usain Bolt. Usain Bolt streaking away from the field. It's going to be gold for Jamaica. That is superb. It's a new world record. He has blown them all away. La regina delle discipline sportive delle Olimpiadi è sicuramente l'atletica e le finali dei 100 e 200 metri sono uno degli appuntamenti più attesi dal grande pubblico. Ma le Olimpiadi si chiudono sempre con una gara che si svolge a poche ore dalla cerimonia di chiusura e più di tutte incarna lo spirito olimpico, la maratona. Considerata un delicato mix tra forza, resistenza fisica ed equilibrio mentale, questa disciplina costringe l'atleta a dosare le proprie energie fino all'ultimo chilometro. L'obiettivo è vincere il trofeo più ambito di tutta l'Olimpiade, la medaglia d'oro. Londra 1908. È qui che ha luogo la quarta edizione delle Olimpiadi Moderne. Le due precedenti edizioni non hanno avuto un grande responso di pubblico, distratto dalle esposizioni universali che si svolgono in contemporanea alla manifestazione sportiva. Per Londra è un'occasione unica per dimostrare al mondo intero l'importanza di questo evento sportivo, capace di raccogliere gli atleti più forti e valorosi del mondo. Chi partecipava alle Olimpiadi non lo faceva per soldi, ma semplicemente per amore dello sport e patriottismo nei confronti del paese che rappresentava. Se vincevi dovevi rimanere modesto e se perdevi dovevi far vedere di aver perso con onore. L'inglese Brendan Foster, medaglia di bronzo nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Montreal 76, ci racconta il vero spirito che regna nelle prime edizioni dei Giochi Olimpici. Gli atleti non sono professionisti e non ci sono premi in denaro e sponsorizzazioni. Chi partecipa alle Olimpiadi è convinto veramente che l'importante sia partecipare. Dorando Pietri e John Hayes hanno guadagnato un posto per le Olimpiadi di Londra e sono pronti a rappresentare al meglio il loro paese. Dorando è accompagnato dal fratello Ulpiano che, abitando a Londra da qualche anno, se la cava con l'inglese e gli fa da manager e preparatore atletico. Hayes invece fa parte della squadra statunitense, molto bene organizzata, sicuramente più della semplice coppia carpigiana. Il 24 luglio, in una giornata particolarmente calda e assolata, i 56 corridori della maratona si ritrovano ai nastri di partenza. Dorando ha studiato a lungo i suoi avversari, li conosce uno a uno. Conosce molto bene soprattutto John Hayes, l'americano che considera il suo avversario più forte, l'uomo da tenere d'occhio. Il via viene dato al castello di Windsor dalla principessa del Galles e Dorando, con la pettorina numero 19 appuntata alla canottiera con quattro spille da balia, inizia la sua corsa. In mano tiene una spugna imbevuta nell'aceto balsamico che si è portato da casa. Dorando la usa per scuotersi nei momenti in cui la stanchezza sembra avere il sopravvento. Gli ricorda la sua carpi, il profumo del fieno, le corse nei campi da bambino con le scarpe consumate fino a bucare la suola. Davanti a lui ci sono 40 chilometri da correre. O forse no. Il tragitto della maratona nelle prime edizioni delle Olimpiadi era di 40 chilometri. Alle Olimpiadi di Londra si partì dal castello di Windsor e si pensò di far arrivare i corridori al White City Stadium, davanti al palco reale. La distanza totale era di 42 chilometri e 195 metri e quindi il percorso risultò più lungo di quanto avevano sempre corso gli atleti fino a quel momento e divenne la misura ufficiale per tutte le edizioni successive. Dorando Pietri supera uno dopo l'altro tutti i suoi avversari e procede con sicurezza verso la vittoria. Quando si affianca ad Hayes, i due si guardano, si sorridono. L'americano fa un cenno col capo a Dorando in segno di saluto. È normale che un atleta, vista la propria inferiorità, ceda il passo in questo modo. Dorando contraccambia il saluto e prosegue. Il fratello Ulpiano, che lo accompagna in bicicletta, corre verso lo stadio per godersi l'arrivo trionfale del fratello. Sì, perché il momento più bello della maratona olimpica non è tanto il taglio del traguardo quanto l'entrata nello stadio con la folla festante che ti accoglie con un boato. Lo sa bene anche Gelindo Bordin che la maratona l'ha vinta nel 1988 a Seul. Per quanto riguarda un maratoneta, almeno per quanto mi riguarda, il momento più esaltante è stato quando sono entrato allo stadio più che quando ho attraversato la linea del traguardo. È l'uomo che vince, è l'uomo che vive in questo momento la più grande soddisfazione che un atleta possa vivere. Gelindo Bordin. Dorando Pietri entra nello stadio accompagnato dall'incitamento della folla, ma si vede subito che qualcosa non va. Svolta a sinistra anziché a destra, i giudici gli dicono di cambiare direzione, barcolla, cade, si rialza, cammina incerto e cade di nuovo. Sulla testa un fazzoletto bianco che lo rende un po' ridicolo, ma che il fratello Ulpiano lo ha costretto a indossare perché quel giorno a Londra il sole è cocente. Sviene, viene soccorso e rianimato da un medico. A pochi metri dall'arrivo Dorando Pietri cadde, di nuovo, e la folla a quel punto scoppiò in un grido disperato perché videro arrivare Johnny Hayes, l'americano, e gli inglesi non volevano assolutamente che davanti al re d'Inghilterra vincesse uno Yankee. Finalmente Dorando si rialza, i minuti passano e alle sue spalle sopraggiunge Hayes. A pochi metri dall'arrivo cade in ginocchio, non ce la fa più. Poi un braccio lo sorregge. Un uomo con la paglietta e il megafono, un giudice, lo aiuta a tagliare il traguardo. Poi Dorando Pietri perde i sensi tra le urla della folla che festeggia la sua vittoria, mentre dietro di lui arriva secondo Johnny Hayes. Oggi a Destini Incrociati, il maratoneta Dorando Pietri ha vinto la maratona alle Olimpiadi di Londra del 1908, precedendo il suo diretto avversario, l'americano Johnny Hayes. Ma il destino sta cambiando le carte per il giovane corridore carpigiano, come ci racconta Ivano Barbolini. Fu aiutato e quell'aiuto, gli americani fecero ricorso e i giudici diedero ragione giustamente ad Hayes. E io aggiungo per fortuna, lo squalificarono, Hayes vinse la medaglia d'oro, ma Dorando Pietri commosse tutto il mondo. Alessandra di Danimarca, moglie del re Edoardo VII, rimane così colpita da quel piccolo atleta italiano che ha voluto a tutti i costi raggiungere il traguardo a rischio della vita, che nella notte successiva alla gara fa preparare una coppa argentata che lei stessa consegna il giorno dopo a Dorando Pietri, acclamato dalla folla più del vincitore della medaglia d'oro Johnny Hayes, che sportivamente si congratula con Dorando per la grande prova. E il mattino seguente consegnò questa coppa e una pergamena a Dorando Pietri ed è stata la prima e l'unica volta che in una Olimpiade uno che prima ha vinto, poi ha perso la vittoria, ha ricevuto una coppa, perché nelle Olimpiadi si consegnano solo medaglie. Nei mesi successivi alle Olimpiadi, Dorando Pietri è al centro dell'attenzione da parte dei giornali. Tutti lo considerano il vero vincitore della maratona e chiedono una rivincita con Hayes. Armando Cugnet, direttore della Gazzetta dello Sport, lo va a trovare nella sua casa di Carpi e gli propone di organizzare con gli americani una storica rivincita contro Johnny Hayes, uno contro l'altro, nel luogo più prestigioso di New York, il Madison Square Garden. Gli americani sono d'accordo e soprattutto è d'accordo Hayes, che non ha mai ricevuto grandi festeggiamenti per la sua vittoria. Hayes non ebbe mai il riconoscimento della vittoria di quella maratona neanche qui negli Stati Uniti. Tutti conoscevano l'impresa di Dorando Pietri e nessuno parla di Hayes come il vincitore della maratona olimpica, ma di quello che arrivò secondo dietro l'italiano. Chi parla è Frank Shorter, vincitore della medaglia d'oro nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco ed è considerato il primo americano che abbia vinto la maratona olimpica. Proprio per questo motivo, la sfida del Madison Square Garden viene organizzata nel novembre 1908, pochi mesi dopo le Olimpiadi. Anche Johnny Hayes vuole dimostrare di essere un grande campione, ma in quel momento tutti parlano solo e soltanto di Dorando, il piccolo italiano. Dorando e suo fratello Ulpiano impiegano più di 10 giorni ad attraversare l'Atlantico per raggiungere New York. Per mantenersi in allenamento, Dorando corre ogni mattina sul ponte della nave per 42 chilometri, con i passeggeri che lo sostengono e lo incitano. La sfida con Hayes è troppo importante. Ognuno dei due vuole dimostrare all'altro di essere il più forte. E la Grande Mela è pronta per ricevere i due sfidanti in quello che diventa l'evento sportivo più atteso dell'anno. Siamo a New York, il giorno prima del più grande evento sportivo dell'anno. L'America sfida l'Italia. Dorando, come lo chiamano ormai gli americani, contro Hayes, per sapere chi dei due merita la medaglia d'oro di Londra. Dorando Pietri e il fratello Ulpiano sono stati invitati a cena da Frank Grieco, uno degli organizzatori della corsa al Madison Square Garden. Dorando è istintivamente diffidente e presto capisce il perché. Frank Grieco gli fa sapere che la corsa si può aggiustare in modo che sia Hayes a vincere. In questo modo, l'interesse da parte della comunità italiana in America per una successiva rivincita porterebbe soldi e notorietà a tutti. Dorando non ci sta. Non è così che vede lo sport. Non è pronto a corse truccate o pilotate con il solo scopo di guadagnare più soldi. C'è solo una cosa da fare: andare a parlare a Johnny Hayes e raccontargli tutto. Dorando non lo conosce, ma sa che tra gli atleti del suo tempo vige un codice non scritto, basato su regole di cavalleria, sull'onestà e sulla lealtà. Si gareggia secondo le regole di De Coubertin, non secondo quelle dettate dal denaro, e Dorando è sicuro che anche Hayes la pensa come lui. La mattina della gara si alza presto e si reca al Park Central Hotel, dove alloggia Johnny Hayes. Quando Hayes lo vede, gli corre incontro e lo saluta affettuosamente. Dorando gli dice che gli deve parlare e i due, per non destare l'interesse dei fotografi, si danno appuntamento all'interno di Central Park per parlare con calma e lontano da occhi indiscreti. Johnny Hayes conosce un po' di italiano perché ha lavorato come garzone in un negozio con due migranti italiani. E con la sorella di uno dei due c'è stato anche qualcosa in più di una semplice amicizia. Dorando gli racconta della cena con Frank Grieco ed Hayes, dopo aver ascoltato con attenzione, comunica a Dorando il suo pensiero. Lui sa che Dorando è più forte, se ne è accorto a Londra quando è stato superato dal piccolo italiano. Sa anche che ha un dovere nei confronti della sua nazione ed è quello di provare a vincere a tutti i costi. Su una cosa è pienamente d'accordo con Dorando: la gara deve essere vera, senza accordi di alcun tipo, nel rispetto delle regole. Dorando tira un sospiro di sollievo. È sicuro che la corsa sarà uno scontro fra due corridori leali e che il vincitore sarà colui che avrà dimostrato di andare più veloce dell'altro. I due sanciscono il loro accordo con una vigorosa stretta di mano e Johnny Hayes, in un italiano maccheronico, dice a Dorando: «Vinca il migliore!» Stiamo ripercorrendo la storica sfida tra Dorando Pietri e Johnny Hayes, gli eroi della maratona delle Olimpiadi di Londra del 1908. Una sfida che mette a confronto due nazioni, gli Stati Uniti e l'Italia, e che per molti significa qualcosa di più di una semplice gara. Alle 9 di sera del 25 novembre 1908, il Madison Square Garden di New York è pieno in ogni ordine di posti. All'interno la pista è di legno, è stata ricoperta da un sottile strato di sabbia umida che rende perfetto il percorso circolare che i due corridori devono ripetere 262 volte per arrivare ai fatidici 42 km e 195 metri. Prima della corsa, come si usa a quel tempo, i due corridori rinvigoriscono le loro forze con un bicchiere di brandy. Hayes e Dorando si guardano ancora una volta, si sorridono. Poi brindano e si salutano, preparandosi per la corsa. Dorando Pietri va subito in vantaggio, ma durante la corsa Hayes recupera e i due si alternano al primo posto fino a tre quarti della gara, quando Dorando inizia ad aumentare il ritmo delle sue falcate e giro dopo giro aumenta il suo vantaggio nei confronti dell'americano, che per un soffio evita l'onta del doppiaggio. Dorando vince e la folla è in delirio. Bisogna ricordare quanta gente Dorando fece felice. Cioè, il Dorando che nel 1909, 10, 11 vinse tanto nelle Americhe, quando era il periodo dell'immigrazione, per cui figuriamoci gli italiani, quando New York batté il vincitore Hayes, ma lo batté più di una volta, figuriamoci il Madison Square Garden pieno, quasi tutti gli italiani, che gioia! Le parole di Ivano Barbolini descrivono bene cosa stia accadendo al Madison Square Garden. La sfida viene vinta da Dorando Pietri, ma i due a fine gara si abbracciano e festeggiano insieme. Per Dorando è il giusto riconoscimento della medaglia persa alle Olimpiadi. Per Hayes è comunque la consapevolezza di vivere un momento storico per lo sport. Con le sfide tra Dorando ed Hayes si può dire che inizi il moderno professionismo sportivo. Dopo questa sera newyorkese, le sfide tra i due campioni si ripetono e anche per loro, dopo anni di sacrifici, incominciano ad arrivare i meritati guadagni. Rimane però quella stretta di mano a Central Park che unisce due uomini nella loro comune passione per lo sport. Dopo la gara del Madison Square Garden, Dorando Pietri e Johnny Hayes si incontrano altre due volte e Dorando ne esce sempre vincitore. I due atleti diventano, nel giro di poco più di due anni, i personaggi più popolari d'America e la loro fama li porta in diverse direzioni. Hayes continua la sua carriera sportiva e dopo alcuni anni torna alle Olimpiadi nel 1912, ma questa volta da allenatore della squadra americana. Hayes rappresenta un mito per l'atletica americana. La sua vittoria, giusta o sbagliata che sia, ha rappresentato comunque l'unico successo americano nella maratona per più di 60 anni. Frank Shorter, medaglia d'oro nella maratona di Monaco del 72, ricorda con stima quel giovane garzone di origini irlandesi che ha condiviso con Dorando Pietri una delle sfide sportive più avvincenti del secolo. Dorando è tornato alla sua Carpi, dove si mangiano cose genuine, si beve vino buono, dove la gente ti saluta per la strada e le pioppe parladore ti consigliano sul tuo futuro. Dorando Pietri ha parlato con un dottore, gli ha parlato di quel dolore al petto che ha da quando è ragazzino e che ogni tanto lo fa star male mentre corre. Il dottore è chiaro: Dorando deve smettere di correre, se no muore. Il suo cuore non funziona bene ed è un miracolo che qualcosa di grave non sia già successo. Due signori gli passano vicino e lo salutano. Lui sorride, ma il suo cuore è triste. Anche la pioppa parladora, quella che non sbaglia mai, gli sta parlando. Anche lei sa che scegliere tra inseguire la propria passione o sopravvivere, restando vicino alla sua famiglia, non è una decisione facile da prendere. Ma in fondo, Dorando è diventato il più famoso carpigiano del mondo. È ricco, ha ancora una vita davanti a sé, ha dimostrato al mondo intero di saper correre più veloce di tutti gli altri. Forse è arrivato veramente il momento di riposarsi un po'. Dorando Pietri abbandona l'attività agonistica nel 1911, ritirandosi a vita privata a Sanremo, dove con i soldi guadagnati con le sue vittorie compra un albergo e un'officina. Le parole più belle che restano scritte tra le pagine dei giornali di tutto il mondo sono quelle di Sir Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, che presente sulla tribuna del White City Stadium di Londra, dopo aver vissuto da vicino il dramma di Dorando Pietri, ne esalta la figura dalle pagine del Daily Mail. Quando il ricordo di questa grande corsa del 1908 si sarà esaurito, rimarrà negli occhi di tutti la visione di quella faccia tormentata, di quegli occhi evanescenti e di quelle gambe rosse barcollanti che portarono Dorando alla vittoria. Mentre scrivo, corre voce che egli sia stato squalificato. Se questo è vero, sarebbe proprio una tragedia. Ma ci sono premi che vanno al di là del ramo di quercia e della medaglia. La grande prestazione dell'italiano non sarà mai cancellata dai libri dello sport, indipendentemente dalle decisioni che prenderà la giuria. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.